Radio 24. Libera la voglia di fare. Serata libera allora per Nainggolan? Sì, per quasi tutti. Lui stasera dorme con me, nel letto matrimoniale. Tutti convocati weekend di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo. Confermiamo dunque il finale. Inter batte Empoli 2-0. Filippo, consentimi di usare il microfono di Tutto il Calcio per un saluto. Questa è stata la mia ultima radiocronaca. Ho avuto il privilegio di far parte della squadra di Tutto il Calcio minuto per minuto e di aver lavorato con gli ideatori di questo gioiello, consentitemi di chiamarlo così, Guglielmo Moretti, Roberto Bortoluzzi e Sergio Zavoli. Tutto il Calcio ha ormai, come sappiamo tutti, 57 anni, ma è una trasmissione ancora giovane. Giovane e bella, vorrei dire, e durerà a lungo, almeno finché esisterà la passione nostra e vostra per il calcio. Grazie alla RAI, grazie davvero alla RAI per le opportunità che mi sono state concesse, alla straordinaria redazione sportiva di Radio 1, ma soprattutto a voi che avete scelto e che scegliete di ascoltarci. Grazie a te Filippo, cedo a te la linea, ancora una volta naturalmente, e questa volta posso dirlo, è davvero tutto, a te Corsini. Insomma, abbiamo fatto un po' uno strappo alla regola, ci siamo rubati un pezzettino di Tutto il Calcio minuto per minuto per sintetizzare questo pomeriggio. Come è giusto la vittoria dell'Inter sull'Empoli e poi il saluto di Riccardo Cucchi, che è un grande collega per tutti noi che facciamo radio. Ma è chiaro, adesso lo facciamo come lui, con il sorriso sulle labbra, molto bello il suo... Sì, non è morto, eh. No, ma infatti è stato... Ma infatti è stato molto bello il suo... così, il suo ultimo pensiero, no? Ha ringraziato tutti, ma col sorriso sulle labbra. Si sentiva, per radio si sente quando c'è il sorriso. Ed è un grande che va in pensione. Poi lo vedremo reincarnato in mille reincarnazioni. Io credo, perché è ancora molto giovane e estremamente bravo. Ma sì, ma poi la radio non morirà mai. La radio che racconta il calcio, soprattutto se c'è passione, come quella che ci mettiamo anche noi. 800 24 00 24, chiamate subito per prenotarvi, per raccontarci cosa pensate di questa domenica pomeriggio, della vittoria della Roma, dell'Inter, magari anche della vittoria del Napoli, anche se dobbiamo tornare indietro fino a venerdì, o di quello che ci aspetta nei prossimi giorni con il ritorno della Champions League. E c'era un rigore per l'Inter che non c'era è stato un rigore dato. Per l'Inter, c'era un rigore per l'Inter su Eder. Celi non l'ha dato così. Celi non l'ha dato. Pensa se l'Empoli avesse pareggiato. Ma non ha pareggiato, l'Inter ha vinto la partita. Gabigol non ha segnato, Palacio è uscito visibilmente contrariato, come avrebbe detto forse Riccardo Cucchi, per la sostituzione. Sì, bisognerà anche interrogarsi sull'utilità di queste arrabbiature a 10 minuti dalla fine sul 2-0. Non lo so, andiamo subito a San Siro dal nostro Dario Ricci. Ciao Dario. Ciao ragazzi, ben trovati qua da San Siro. 2-0 netto, come dicevamo, con le reti di Eder al 14esimo. C'è stato un cross rimpallato, bravo Palacio a inseguire la palla fino alla linea di fondo e di testa deviarla sul secondo palo, dove Eder non ha fatto altro che tirar fuori il petto e battere Skorupski, che prima e dopo ha fatto davvero degli interventi importanti. E poi al nono della ripresa ancora Eder protagonista del raddoppio, perché è suo lo splendido cross di esterno destro che imbecca Candreva, un ottimo Candreva, sul secondo palo. L'ex laziale di destro da pochi passi batte ancora Skorupski. Ci sono state anche un paio di belli interventi di Handanovic, perché in l'Empoli, con tutti i suoi limiti, ha provato anche a stuzzicare il portiere interista. Commento di giornata affidato all'amico e collega di Repubblica Andrea Sorrentino. Beh Andrea, detto un po' della partita, fa notizia anche questa la pagnolata, era stata preannunciata, no? Questa protesta, la mitica pagnolata dei tifosi interisti, che poi si è riproposta in varie forme durante la partita, quel rigore. In realtà c'è un giallo, perdonatemi, perché metà dei giornali oggi dicevano che ci sarebbe stata la pagnolata, qualcuno ha scritto che invece era stata cancellata dal programma. Invece ci confermate che c'è stata? Sì, c'è stata. Buonasera a tutti. Ciao, c'è stata prima della partita con il sottofondo anche di chi non salta bianco-nero è, questo bisogna dirlo. E poi c'è stata al 30esimo del primo tempo, in occasione di questo rigore non concesso, che in effetti c'era, alla pagnolata dello stadio hanno partecipato anche alcuni giocatori della panchina interista sventolando delle pettorine, sicuramente Bia Biani l'abbiamo visto, quindi questa è stata una cosa abbastanza così collettiva, ma al di là di questo io penso che poi queste cose si stempereranno col tempo. L'Inter ha giocato una buona partita, secondo me non aveva Icardi e Perisic che sono i suoi dioscuri dell'attacco, più della metà dei gol sono arrivati da loro, ha sopperito con Eder e Palacio che hanno giocato molto bene, ha sopperito con un modulo che stavolta è stato veramente 3-4-1-2, mentre a Torino in fase difensiva era stato sempre a 4, ma oggi hanno giocato a 3 per tutta la partita. Secondo me è una buona Inter che ha fatto il suo dovere e che ha esibito nel finale anche questo Andrea Pinamonti, debutto, che ha esordito in Serie A, 18 anni a maggio, secondo me molto molto molto più bravo di Gabigol, senza che è contratto anche lui, come Donnarumma, lo diciamo. Sì, ma glielo faranno presto perché è un giocatore bravo, secondo me. Ma sono i paradossi di queste regole. Mi pare di poter sintetizzare tutto con 4 passi nella normalità dopo una settimana di isteria, anche se c'è stato un minuto sliding doors, perché insomma, se non sbaglio, l'Empoli ci è andato vicino al pareggio pochi istanti prima del raddoppio. Sì, proprio in 40 secondi Krunic si fa parare un'incursione da Handanovic, Maccarone spara alto sul rovesciamento di fronte, c'è il cross di Der e il gol di Candreva. Devo dire che è un Inter che, al di là poi della qualità delle prestazioni, più passa il tempo più secondo me esibisce una serenità generale di fronte agli eventi della partita che prima non aveva, e questa secondo me è la cosa più importante che abbiamo visto in queste ultime settimane. Sì, gioca con grande tranquillità. Ciao Andrea. Gioca con grande tranquillità l'Inter, aspettando quel gol che poi arriva, nonostante sia stato giustamente sottolineata l'assenza dei due dioscuri dell'attacco nerazzurro. Due terzi dei gol dell'Inter. Ma certo, vabbè, non è inutile stare a sottolineare l'importanza di questi due giocatori. La cosa che più mi ha folgorato, devo dirti, e te l'ho ripetuto anche troppe volte mentre stavamo guardando la partita, è stato quel cross di esterno destro di Eder, che ha messo il pallone sul piede di Candreva, che ha messo al sicuro il risultato, ma un Inter normale, un Inter sicura di sé, un Inter che ha smaltito i rancori, io credo, le troppe chiacchiere, le troppe parole che sono state fatte in settimana. Io volevo coinvolgere anche il nostro Dario Ricci. Abbiamo visto Kondogbia prendere un cartellino giallo pesante perché era diffidato, salterà Bologna-Inter, tornerà Perisic, mancherà ancora Icardi, mancherà ancora Brozovic. Io credo che la domanda oggi sia se l'intervista oggi basta per il Bologna, visto che, come anche ha scritto sui muri di Appiano Gentile Pioli, non c'è più spazio per passi falsi. Sicuramente diciamo che l'Empoli, con tutto il rispetto, è stato un po' l'avversario ideale per smaltire almeno un po' di queste squalifiche, perché appunto ci hanno provato i toscani, ma la partita è stata sempre nelle mani dell'Inter, malgrado quello che abbiamo detto della buona prestazione di Handanovic con alcuni interventi importanti. Il Bologna, se il Bologna che abbiamo visto nelle ultime due uscite, quest'Inter non ha di che preoccuparsi, ma è chiaro che il rossoblù di Donadoni e caro Giovanni dovranno dar pur qualche cenno di vita, e alle 18 sono in campo a Marassi con la Sampdoria, quindi molto dipende dai rossoblù, però è anche vero che quest'Inter, come diceva Andrea Sorrentino, ha trovato una sua serenità, una sua modalità di affrontare il match, non è più preda degli interismi, isterismi di qualche tempo fa. Gran parte del merito di questo va sicuramente data a Pioli, che ha dato una quadratura a una rosa importante e qualificata. C'è un amico che scrive un sms al 349-238-6666, a proposito, ripeto i numeri: 349-238-6666, sms e whatsapp 800-24-0024, per prenotarvi e intervenire in diretta. E candida Pioli come sostituto di Allegri, altro tema, alla fine della stagione, anche se ieri Allegri ha provato un po' a mischiare le acque. Sì, a mischiare le acque, le carte, tutto quello che vuoi. Io sono convinto che Allegri andrà via dalla Juventus e che su quella panchina arriverà chi siede attualmente su quella della Fiorentina, ma non dico niente di nuovo. Pioli, io credo che rimarrà all'Inter, è su una panchina prestigiosa, sta facendo bene. Ti giro un'altra domanda: vale la pena pensare di mandare via Pioli per Conte o Simeone e ricominciare da zero in estate? Vale la pena pensare di mandare via Pioli per Conte o Simeone? Per Conte, ma Conte o Simeone? Non, Conte assolutamente, scordatevelo, perché che rimane là, e sono tutte, secondo me sono tutte favole quelle che abbiamo letto, scritto, cifre comprese naturalmente. E io credo che Simeone rimanga l'Atletico Madrid. Allora andiamo subito nel traffico, così poi c'è Pioli al rientro dai microfoni di Premium Sport. Tutti convocati. Tutti convocati. Fatto un'ottima prestazione, un buon inizio di tabella, visto che in settimana si sono viste anche quelle di Premium e Pioli. Beh, ma è chiaro che dobbiamo cercare di motivarci, di stare attaccate alle nostre ambizioni, e cerchiamo di trovare ogni settimana gli spunti adatti. La settimana era passata con grande attenzione, con grande determinazione, con ritmo, ed è quello che poi siamo riusciti a mettere sul campo contro l'avversario non facile, ma credo che abbiamo fatto una buona partita. Potevamo concedere qualcosina in meno e lì dobbiamo stare più attenti, però è un risultato importante, era importante subito reagire dopo una settimana difficile, per questo sono contento. A chi è venuta l'idea di mettere quei quadri motivazionali ad Appiano Gentile? Una cosa all'Elenio Herrera, insomma. Beh, ma perché non l'avete visti quelli la settimana precedente? Tutte le settimane cerchiamo di avere degli obiettivi, di avere degli spunti per rendere il nostro lavoro ancora più stimolante, ancora più positivo. E quindi sappiamo noi che percorso vogliamo fare, sappiamo che sarà difficilissimo, non sarà senz'altro facile, però ci dobbiamo provare fino alla fine, assolutamente dobbiamo continuare a pensare a vincere tutte le partite alla fine, o comunque a dare il massimo, perché dando il massimo comunque stiamo diventando una squadra competitiva. Questo Pioli, i microfoni di Premium Sport. Chissà cosa c'era scritto settimana scorsa sui cartelli motivazionali di Appiano Gentile. Allora, saluto il nostro Dario Ricci, grazie Dario. Ciao Dario. Ciao ragazzi, se lo scopri chiamaci, sì. Cosa c'era scritto settimana scorsa? sicuro. Magari lo chiediamo a qualcuno che per qualche anno ha frequentato Appiano Gentile, Ciccio Colonnese. Ciao Ciccio. Ciao. Buonasera a voi, buon pomeriggio. Ecco, cosa c'era scritto secondo te settimana scorsa sui cartelli motivazionali di Pioli? Prima della partita di Torino? C'era scritto di ricordare che c'è, presumo, che grande rivalità, e quindi andare a Torino per cercare di onorare la maglia. C'è stato scritto: attenti che arbitra Rizzoli, quindi, quindi sicuramente si parte da 0-1, non ci danno i rigori, tutte queste cose qua. Allora, io non credo, abbiamo detto prima, insomma, oggi due passi nella normalità per l'Inter. Abbiamo sentito Pioli fare riferimento a quella quota 81 punti che si raggiunge con le 13 vittorie, ora 12, da qui alla fine del campionato. Vi do un aggiornamento: 81 oggi è la quota Champions, perché con la vittoria di Napoli e Roma la quota per il secondo e per il terzo posto in proiezione si è alzata a 84 punti per il secondo posto e a poco meno di 81 per il terzo. Io tutte le settimane vi do l'aggiornamento. Quindi 81 e arrivi terzo matematicamente. Con 81 hai grosse possibilità di arrivare terzo. Io non so se quello di Pioli sia un sogno o se tu lo consideri un obiettivo raggiungibile, Ciccio. È un obiettivo raggiungibile. L'Inter lo può fare perché c'ha gli sconti diretti, c'ha lo sconto diretto col Napoli, che è quello più vicino in casa. I 5 punti dal Napoli, insomma, devono cercare di essere sicuramente dimezzate, molto passa dallo sconto diretto. Poi il distacco enorme lì, perché l'Inter ha perso col Napoli, poi il cammino più o meno è stato lo stesso, insomma. La differenza è quella, e penso che molto del cammino di Pioli, oppure delle tabelle che si fanno, sono in previsione anche di questa partita, perché insomma, le partite con le altre squadre adesso, come stiamo vedendo, con le squadre interiori le vincono quasi tutte, quindi per questo il problema è quello, insomma, non si ferma nessuno ha una battuta d'arresto, e quindi sicuramente è un po' più difficile, però l'Inter, insomma, dalla sua ha una concretezza diversa. L'Inter anche oggi ha giocato con grande aggressività, andava sempre molto alto a recuperare la palla, ha cambiato modulo, e questo 3-4-3, insomma, questo, e si vede che è molto più aggressivo, è molto più ordinato in campo con Doppia, Gagliardini, insomma, sono giocatori che in mezzo al campo adesso si integrano bene, e la difesa con Medella, qualità di inizio gioco, perché insomma ha un libero vecchia maniera, insomma, si stacca un po', i due difensori marcano, insomma, è un Inter molto equilibrata e molto aggressiva, almeno quello che è anche molto tranquilla, anche molto tranquilla Ciccio, sa quello che vuole, sa come andarselo a prendere, ha la pazienza di aspettare. No, ma per tutto quello che sta facendo vedere l'Inter, io la considero virtualmente, cioè, in modo certo, in corsa per secondo o terzo posto, in corsa per la Champions League. Il problema è che è un campionato talmente strano, per le ragioni che dicevi tu, che le tre retrocesse ci sono già e sono Palermo, Crotone e Pescara. Abbiamo un sacco di squadre che nulla hanno da dire se non andare di tanto in tanto a rompere qualche volta le scatole alle grandi, come è successo col Pescara a Napoli, però per il resto insomma le grandi vincono tutte, questa è la verità del campionato. Sì, vincono tutte e poi vincono con una certa, dico tranquillità, ma una certa forza enorme, cioè le partite non sono mai giocate, insomma, quindi abbiamo visto sia la Roma, il Crotone, che il Napoli un po' col Genoa ieri, venerdì, e anche l'Inter oggi, con una facilità, una grande facilità, quindi per questo il cammino in questo momento sembra un po' difficile, però io reputo il fatto di dover giocare una volta alla settimana un grosso vantaggio per l'Inter. Ma non dimentichiamo che adesso il Napoli va col Real, mentalmente in questi 15 giorni tra l'andata e il ritorno qualcosa perdi dal punto di vista emotivo. La Roma, se salterà l'ostacolo del Villarreal in Europa League, avrà 5 settimane infatti consecutive col doppio impegno. Infatti, e questa è una cosa che non bisogna sottovalutare, è che l'Inter può preparare benissimo la partita una volta alla settimana, perché se ricordiamo la battuta d'arresto forte dell'Inter l'ha avuta in quella settimana, che ha dovuto preparare due partite, Lazio e Juve, e l'Inter si è fermata. Quindi significa che non è facile preparare le partite, due partite alla settimana. E invece l'Inter ha fatto, ha dimostrato di far molto bene quando ha giocato adesso una volta alla settimana. E infatti la prova del 9 doveva essere quella settimana lì, purtroppo ancora non si è avuta la crescita di da questo punto di vista, insomma. E l'Inter, se vuol diventare grande, deve migliorare anche da questo aspetto. Se esiste una possibilità, passa attraverso gli scontri diretti in casa, ma da vincere. Per forza, senza nessuna possibilità di fare altri risultati. Io ripeto ancora il numero 800 24 00 24, c'è già Mario da Roma. Io però volevo approfittare di Francesco Colonnese. Oggi ho letto, non mi ricordo su quale giornale, un'intervista di Gigi Simoni che diceva: attenti, noi nel 98, dopo il famoso Juve-Inter, Giuliano Ronaldo, poi in realtà buttammo via tutto, ci fermammo, perdemmo, pareggiamo col Piacenza, adesso non ricordo. Attenzione, perché queste settimane qui, quelle piene di così tante polemiche, poi sull'ambiente Inter portano sempre questo pericolo, quello di implodere. Oggi secondo me a tratti l'Inter non era serenissima in campo, anche se ha vinto meritatamente. Volevo sapere da Ciccio cosa ne pensa, se secondo lui c'è stato qualcosa di esagerato nel modo in cui l'Inter ha vissuto questa settimana. No, esagerato no, purtroppo è inutile dirla, è inutile tornare su questo discorso, l'Inter è stata danneggiata, poi dopo le reazioni sicuramente partono dal fatto che c'era qualcosa in passato, perché nel passato non può essere dimenticato, e quindi ogni volta si amplifica tutto, però l'Inter è stata danneggiata da questa partita e ha dimostrato di essere una squadra che l'hai giocata a Torino, ma ampiamente, quindi insomma i valori di questa squadra sono venuti fuori, quindi questa è la cosa positiva. Poi le polemiche, insomma, secondo me sono state inasprite molto anche da chi è proprio, insomma, dai dirigenti, insomma, dovevano, cioè se le polemiche vengono fatte dai tifosi, dai media, ci possono stare, insomma, quando però entrano in campo anche la società, insomma, dispiace, perché insomma, poteva finire lì e basta. È amplificata molto da questo punto di vista, secondo me. Non doveva essere così, insomma. Tra Inter e Juventus non finisce mai lì, Ciccio, dai. Verità, va avanti anche troppo per le lunghe. Io continuo a pensare che abbia sbagliato dopo partita Pioli nel sottolineare quei due episodi. Continuo a pensare che sia stata reggiata, ma fino a un certo punto. Ti faccio una domanda. Noi da fuori, insomma, chi ha giocato a calcio e chi è stato sul campo di calcio sa che in quei momenti c'è grande nervosismo, grande concitazione, ti giochi in una stagione, perché insomma adesso l'Inter non può permettersi nessun passo. In quel momento l'Inter, secondo me, si è resa conto che quella partita poteva andare diversamente, insomma. Poi, perché? Perché l'Inter non si è dimostrata inferiore alla Juve, e quindi quegli episodi, da chi forse era sul campo, l'atteggiamento dell'arbitro, forse hanno dato un atteggiamento non tranquillo come lo vediamo noi da casa, perché molte volte bisogna immedesimarsi nei protagonisti. Perché ci sono quelle reazioni? Perché? Perché poi da lei, ma le reazioni sono eccessive, ma quello che ho capito, ma io anche a Torino volevo picchiare l'arbitro, ma se non mi danno un rigore da 60 metri non vedono il mio, e l'azione dopo me lo vedono da 60 metri, rigore che c'è, no? Che non c'è, sì, però lo vedi da 60 però metri. Però l'arbitro si può anche non picchiare, eh? Infatti no, però le reazioni si possono stare quando ti vedi un torto, cioè è difficile gestire, poi sei bravo se riesci a gestire le tensioni, però insomma fa parte del calcio anche quello di avere una reazione, cioè l'attaccamento alla tua squadra, l'attaccamento ai tuoi tifosi, cioè non possiamo pensare che molte volte calcio, se no se ne strafrega ma poi è Juventus Inter, è più di una rivalità, se no sembra sempre che uno là, ma il calciatore non se ne frega nulla, non reclama, non fa nulla, va lì, va lo stipendio, non è così. Noi smettiamo di parlare di Juventus Inter come ci chiedono gli amici da casa, mentre la Moviola sta vivisezionando Inter-Empoli, tra tocchi di braccio, falli presunti di mano, spinte in area di rigore. Ma non è importante Inter-Empoli. Grazie Ciccio. Ciao Ciccio. Ciao. Grazie Francesco Colonnese. Perdonatemi, avrei piacere di estrinsecare il mio contributo pacato. Oh, bene. È da una settimana circa che sento parlare e sento delle panzane incredibili, grottesche, però moderato, roba da subur. Sì. I miei sono sempre interventi, diciamo, moderati. Le parole di Elkan, offensive per il popolo nerazzurro, diciamolo neanche per scherzo. Dai. Vabbè, ma non stiamo a riaprire il tifoso, però. Il tifoso interista ragiona con il fegato, né più né meno come, che ne so, Ivan Bogdanovic o Jenny La Carogna, no, per intenderci. Detto questo. No. Mario da Roma, Mario. Ah, buonasera. Buonasera. Mario, prego. Premetto che non sono sportivo, ma non sono tifoso, però volevo spendere una parola in favore dell'Inter, in questo senso, in merito alla recente diatriba sulla Juventus. Sì. Tanto io direi al signor Elkan che dovrebbe ricordare che l'Inter non è mai andata in Serie B e sinceramente non ha mai rubato scudetti, tant'è vero che alcuni scudetti assegnati alla Juve poi non sono stati revocati, Mario, perché li aveva rubati, per carità, questa è una prima valutazione. Possiamo però fare un appello, parole criminali. Male che non è passata una settimana, Mario, dai. Sì, per quanto riguarda il resto è passato anche qualche anno, ecco, se vogliamo. Andiamo tutto in prescrizione. Fabrizio da Teramo. Fabrizio. Sì, buonasera. Vai. Io volevo intervenire per quanto riguarda il discorso di Abo Elkan. Secondo me la cosa... John Elkan però, Prego, è l'altro Elkan. Però vai. Sì, l'altro Elkan. Secondo me sono sbagliate un po' le affermazioni fatte, nel senso che io parlo juventino, doveva un attimino far scivolarsi dietro le cose, cioè fare quelle affermazioni sull'Inter, perché assolutamente secondo me ha accentuato la cosa, nel senso che se non si lasciano morire certe critiche non si va più avanti, secondo me. L'Inter anche oggi ha dimostrato, facendo critiche sull'arbitro per Empoli, sono d'accordo, se le poteva risparmiare e ne avremmo fatto tutti quanti volentieri a meno a metà settimana dopo tutto quello che era successo. C'è chi ci accusa di essere subdolamente anti-juventini, Vabbè. Parliamo di calcio, per favore. Esattamente, non mi sembra la stessa identica cosa. Dai. Forse il grande Perisic stava declamando a Rizzoli degli eleganti sonetti di Dante Alighieri, del Petrarca o di Cecco. Torniamo fra due minuti. Dai. Tutti convocati. Allora, do anche qualche aggiornamento in diretta. Sta giocando Leicester di Ranieri a Swansea 0-0, e da poco passata la mezz'ora del primo tempo. Oggi non ha vinto il Chelsea, ha pareggiato 1-1 in trasferta contro il Burnley, e quindi in classifica a 10 punti di vantaggio su Tottenham e Arsenal, 11 su Liverpool e Manchester City, ma il Manchester City gioca domani la sua partita e quindi potenzialmente potrebbe essere a meno 8. E poi c'è da raccontare anche il 2-2 esterno del Nizza contro il Rennes, Nizza che scivola in terza posizione nella classifica della Ligue 1. Però attenzione, perché Balotelli non solo è stato escluso dalla formazione titolare, ma oggi non era nemmeno in panchina. Motivi ignoti? Motivi ufficialmente un'indisposizione. La classica, e quindi ci sarà da capirne di più. Alle 18 vi racconteremo anche Sampdoria e Bologna. Pierluigi Pardo, ciao. Ha segnato lo Swansea in questo momento. Però, insomma, c'è tempo, 36esimo. Questo è un vero duello per la salvezza, noi lo diciamo. Qualche altro numero. Intanto al quarto posto con l'Inter c'è anche l'Atalanta, che ha fatto 13 punti su 18 nel 2017. Il Torino ha fatto la seconda vittoria nelle ultime 10, anche se la faccia di Mihajlovic, che stiamo aspettando ai microfoni di Premium Sport, era tutta da vedere dopo aver incassato 3 gol negli ultimi 10 minuti. Il Pescara ha preso 20 gol nelle ultime 5 partite. Così abbiamo dato la fotografia di questa domenica pomeriggio. Assurdi, allucinanti. Tu non hai l'indisposizione come Balotelli, no? Tutto tranquillo, Pierluigi? No, io sto tranquillo. No, devo dire che la situazione del Pescara sta diventando imbarazzante, insomma, nel senso che poi va bene la personalità, provare a giocarsela, però ecco, quando vedi una squadra in questa grande difficoltà, stare sotto di 4 gol in mezz'ora, veramente ti fai delle domande sul livello tecnico, ma anche proprio sulla gestione di tutto. È stata una settimana complicata, anche sulla professionalità dei giocatori. Dai, anche sulla professionalità, non lo so, questo è un discorso pericoloso, perché poi alla fine la professionalità dei giocatori, io che ne so se sono professionali o no. Io penso siamo professionali, no, ma nel senso che non nel senso che vanno a ballare tutta la notte, nel senso che un po' di amore proprio ce lo devi avere, o quantomeno oggi Toro ha fatto 3 gol nel primo quarto d'ora. Devi inchiostrare un contratto evidente, l'anno prossimo, però è stato un discorso pericoloso, soprattutto in una settimana nella quale ci sono state cose molto, molto gravi a Pescara, quindi è un tipo di ragionamento che ci può anche stare, ma che secondo me è anche un po' pericoloso, nel senso che poi far passare l'idea che se non c'è il risultato è perché in qualche modo tu non l'abbia avuto abbastanza, ripeto, è un po' pericoloso, nel senso che poi non credo che nessuno perda apposta. Credo che semplicemente Pescara non sia adeguato a questa Serie A, non è adeguato a questa Serie A, no, ma questo lo sapevamo anche prima. Il discorso è anche una questione di atteggiamento, perché non puoi andare in campo come ha fatto oggi a Torino, appunto, e dopo un quarto d'ora essere sotto di 3 gol, perché non è una questione di allenatore, può essere una questione di giocatore, non è una questione del fatto che i giocatori non sono adeguati al palcoscenico, però ha un po' di amor proprio che qualche volta Crotone ha mostrato, anche se con identici risultati, mi sembra evidente. Insomma, è un campionato molto triste da questo punto di vista, perché Pescara, Crotone e Palermo sono già retrocesse dal pronti via. Sì. A proposito di Crotone, facciamo 2 passi anche su Crotone-Roma. Dzeko dal dischetto può portare in vantaggio la Roma. Parte Dzeko sul fondo, ha sbagliato Dzeko. Dopo Udine, un altro rigore fallito dal bosniaco. il tuo rapporto con i calci di rigore non sta andando bene in questo momento. Che progetti hai per il futuro? Continuerai oppure lasci ad altri? La prossima lascio altri tirare. Ma che cosa, come li spieghi questi due errori consecutivi? Casualità? Succede, non è niente grave. Il tocco per Nainggolan, che tiene il pallone, vorrebbe caricare il destro. Lo prova! Raja Nainggolan al 40esimo, porta avanti la Roma. Paredes vuole inventare per Salah, è un buon pallone, lo gira Salah. Cecco! Ha raddoppiato la Roma. 18 gol in campionato per il capocannoniere della Serie A, Edin Dzeko. Siamo messi un po' in difficoltà con quel rigore sbagliato, però poi abbiamo preso la partita, l'abbiamo determinata e da ultimo l'abbiamo controllata, anche se con un po' di fatica, perché loro poi hanno avuto una reazione veramente importante. Questo è il riassunto di Crotone Roma. Saluto intanto Michele Plastino. Ciao Michele. Ciao, buon pomeriggio. Guarda chi si risente. Chissà se avrà un altro rigore da tirare, Dzeko, oppure no. Oggi la Roma è arrivata al rigore numero 11. Io dico, tanti, meno male che l'ha tirato fuori. I rigori alla Roma non mancano, così come al Torino, peraltro. Qualcuno dirà, ma mancano Torino, all'Inter. Siamo a 8. Torino siamo a 8 e non tutti segnati. Però non, insomma, secondo me bisogna definire un rigorista, come ha fatto domenica scorsa Mihajlovic, che chissà cosa dirà oggi, sono molto curioso, e smetterla con la tira chi se lo sente, tutte queste cose qui. Evidentemente Dzeko è un momento in cui, pur sbattendola dentro tutte le volte, con i rigori, sì, con i rigori litiga un incarta. Po'. Non male invece Salah, che Spalletti ha recuperato, e credo sia il vero acquisto da qui in poi per la Roma. Michele, sarà un grande giocatore, tra l'altro io sono dell'idea che al di là della finale non è sempre detto che questi campionati mondiali o gli europei o quelle che sono le grandi trasferte sempre debbano nuocere, perché poi esiste anche il fatto psicologico. Sarà, si è consacrato veramente un mito per gli egiziani, cioè, quindi ci sono delle cose anche che ti caricano, quindi poi è stato molto al caldo, voglio dire, io l'ho visto pimpante Salah, cioè oggi è decisivo, oggi decisivo. Sì, ma Comite è stato al di là del rigore più o meno, insomma, era fondamentale. Poi con Salah lui riesce a riproporre la squadra che forse gli era piaciuto di più in assoluto a Spalletti, che era quella di Napoli, perché fu con Salah questa punta che sta però a destra, che però ti dà una mano, che permette a Nainggolan di fare al meglio questo ruolo di guastatore vicino all'area avversaria. Insomma, con Salah lui mette molte cose al loro posto. Sì, Roma, che lo dicevamo prima, avrà 10 partite in 5 settimane, si salta l'ostacolo del Villarreal, e credo che poi il nodo sia tutto qui, no Pier? Sì, perché Roma e Napoli hanno adesso un lasso di calendario molto più difficile rispetto alla Juve. Il calendario della Juve è veramente quasi impressionante, per quanto è facile, poi, perché da tutto può succedere. Facciamo i maliziosi, Pierluigi, tanto lo facciamo tutte le volte. Cosa pensi, come affronterà il Villarreal la Roma? Cioè, se la gioca o no questa Europa League? Giusto per, ecco, giusto per essere chiari. Certo che la gioca, perché non dovrebbe giocare. Gioca con la convinzione di chi la deve vincere. Perché tante altre volte abbiamo visto che se la giocherà perché ha maggior ragione, visto che insomma il campionato non c'è un testa a testa, voglio dire, testa a testa. Vediamo che succede stasera qui a Cagliari, però insomma la sensazione è che, ecco, appunto, ci vorrebbe un suicidio della Juve perché Roma e Napoli possono tornare in corsa per il titolo, quindi a maggior ragione l'Europa League te la giochi, ma assolutamente, ma tutta la vita. Io credo che il turnover in Europa League sia un sbagliato in assoluto. Ci sono delle circostanze, dei casi limite. Mi ricordo il Mazzarri proprio a Villarreal qualche anno fa, col Napoli in testa alla classifica, lo scontro diretto contro il Milan che stava arrivando. Ci possono essere dei casi limite nei quali può essere tollerabile sottovalutarla, Io credo però che il ragionamento, coinvolgo Michele Plastino, sia tra una decina di giorni. Sai, quando ti trovi la partita col Napoli di campionato, il derby che è sempre il derby con la Lazio di Coppa Italia, e ti trovi in mezzo all'Europa League, magari qualche pensiero ti viene. Io non so cosa scaldi di più, Michele, il pubblico della Roma. Beh, al di là del pubblico, penso anche alla società, penso all'allenatore, penso ai giocatori. Io sono d'accordo con Pier, cioè quando arrivi a un certo punto della Coppa, anche l'Europa League è una Coppa a quel punto che diventa di grande prestigio. Va bene, io sono di un'idea che ho sempre detto, cioè io allenatore mi guardo la squadra, dico qual è la migliore in questo momento, gioca quella. Se poi qualcuno mi va in calo fisico di tensione, ne metto un altro. Ora è chiaro che questo è più facile per le squadre che hanno una rosa straordinaria, meno facile per quelle che l'hanno meno straordinaria, però io sono convinto che la strada migliore sia quella degli allenamenti, e quindi io intanto faccio giocare la squadra migliore, poi anche perché se do il segnale alla squadra che faccio giocare seconde linee, già mi vanno in calo di tensione pure le prime linee che giocano. Bravo Michele, come ha fatto l'Inter prima della Juventus con la semifinale con la Lazio. Ha fatto tanto che gli Ardini e i Cardi ma come dice Michele, Pier, dai un segnale, a parte che non c'è neanche un Dombiano. Comunque la Roma un po' di turnover fra una partita e l'altra la farà, perché l'Inter, poi al Villarreal e poi al Napoli, è ovvio che è naturale. In quel caso lì il discorso di Michele è giusto, ma la formazione migliore diventa quella più fresca. Tra un Esharawi a 1000 e un Perotti magari stanco, anche se Perotti in valore assoluto, magari sto facendo un discorso astratto, anche se Perotti in assoluto è il titolare, magari gioca il Esharawi. Infatti non è turnover, io intendevo dire chi è il più fresco gioca, chi vedo meglio gioca. Anche perché se no arrivi dopo 30 buona settimana che quelli sono sempre scompati. Il problema sono quei casi limite tipo Mazzarri qualche anno fa in Europa League, che giocava praticamente con la squadra B, perché gli piaceva evidentemente così. Ma insomma un po' di turnover ragionato, io credo, è quello che ha fatto la Juve a Crotone l'altro giorno. Sì, è la decisione presa a tavolino di far giocare una squadra in Europa e l'altra in campionato. Vi devo fermare, ma vi chiedo ancora un minuto di pazienza, soprattutto Michele Plastino, ovviamente Pierluigi Pardo resta con noi, perché c'è il traffico 800 24 00 24. Poi sentiamo una frase su cui secondo me si può fare qualche ragionamento e qualche discussione. Traffico. Tutti convocati. Tutti convocati. Penso che in un dialogo privato, quando un calciatore importante e rappresentativo della Roma manifesta una antipatia sportiva contro una grandissima rivale che sta vincendo con merito da moltissimi anni, io ci vedo un sano spirito sportivo, uno spirito competitivo, antagonista, di voglia di rivalsa e di competere alla ricerca di quell'ossessione della vittoria che stiamo un po' cercando tutti quanti, e non ci vedo tutti questi connotati negativi che sono stati invece interpretati. Questo è Frederic Massara, direttore sportivo della Roma, oggi, prima della partita di Crotone, ai microfoni di Premium Sport. Io credo ci sia una via di mezzo tra chiedere l'impiccagione di Nainggolan per un video evidentemente rubato e dire che quello che ha detto è sano spirito sportivo. Non so come la pensate, io so, Pier, che Michele. So che Michele Plastino ha un pensiero molto particolare su questo. Dai. L'ho sentito stamattina. Sì, no, io sono infatti d'accordo sulla via di mezzo. Le dichiarazioni di Massara sono ovviamente di parte, dette anche bene, devo dire, così come Spalletti giustamente l'ha protetto. No, quello che sta dicendo Carlo è perché io sono veramente avvelenato per il danno alla nostra categoria. Cioè, noi eravamo sempre stati abituati, Pier sa benissimo, l'ho vissuto da piccolo, Pier, quindi io ho sempre pensato che un'intervista, una dichiarazione abbia bisogno di studio, anche quelle improvvisate se lo trovavi appena usciva dal campo, c'è bisogno di una preparazione tra virgolette quasi culturale di comunicazione. Tu sai che comunque parli a tantissima gente, quindi il giornalista pativa questo, e adesso ancora di più perché per avere un giocatore ufficio stampa, diritti d'immagine, insomma dobbiamo farne passare di tutti i colori. In realtà se invece va qualsiasi persona a parlare con il giocatore e apre il telefonino, dai, così. Come, scusa? O con l'arbitro. O con l'arbitro, vabbè, quella lì è diciamo un po' più una scenetta ben articolata con Rizzoli, sì, consapevole, mentre invece Nainggolan potrebbe non essere consapevole, non era neanche molto sveglio. Però voglio dire, è ovvio che non si tratta di sciacallaggio, come dice Spalletti, perché non c'è nessun morto, però assolutamente sottocultura, cioè è chiaro che poi diffondi una cosa privata, e io sono d'accordo con la via di mezzo, nel senso, non è questa cosa così grave, ma i termini potevano essere usati diversamente. Se fossero stati pubblici, io non credo che Nainggolan avrebbe detto le stesse cose. Io dico soltanto che adesso per chi fa giornalismo diventa tutto molto più difficile, perché questa è la realtà, e a volte poi ti prendi anche le accuse che, come adesso stiamo facendo noi, riportiamo, no? quello che si è visto in maniera virale. Che facciamo noi? Noi facciamo finta di niente, no, che non infatti, esiste il mondo sociale, ma infatti siamo nella morsa, non abbiamo via d'uscita, non abbiamo via di scampo, no, però ci vorrebbe un po' di regolamentazione, io credo. Secondo me la vera cosa, e questo riguarda anche per esempio le telefonate, le intercettazioni, è che tutto ciò che è privato, certo, e sono due ambiti diversi. Poi, certo, onestamente, io a Nainggolan, se fossi intelligente, sicuramente qualcuno alla Roma gliel'avrà detto, gli direi: figlio mio, ma lo sai che sei un personaggio pubblico, per cui anche se non vedi un telefonino e anche se pensi che stai parlando semplicemente con dei tifosi, mettiti in una condizione in cui non dici niente di inopportuno. Mi rendo conto che non è sempre facile, poi esiste anche l'elemento umano, no, ma poi il social network dove li mettiamo? Basta un telefonino per far diventare una frase di questo tipo di dominio mondiale. Scusate, io voglio rispondere a un amico che non ha capito nulla, però ha scritto al 349-238-6666 e quindi merita una risposta. Elkan va censurato mentre Nainggolan è un eroe, siete dei grandissimi. Noi stiamo dicendo il contrario, amico mio. Stiamo dicendo che non va impiccato perché evidentemente era una situazione in cui non era consapevole di essere ripreso, ma non va nemmeno incensato, no, come ha detto Massar. Mi ricordo la famosa telefonata di Lotito, la simpatia o antipatia che c'è nei confronti di Lotito. La famosa telefonata di Lotito, che era una telefonata comunque privata con uno che pensava che fosse un suo amico, giusto o sbagliato che fosse, quella roba lì, no? Dalla quale poi è nato di tutto, semplicemente perché Lotito diceva cose tipo: qui è una tragedia, se salvi una chiara. E tra l'altro, tutto eccetera, archiviato pochi giorni fa, questo per dare una conclusione anche a quella vicenda. Prego. Cioè, onestamente, le conversazioni private sono conversazioni private, sia le conversazioni private poi contengono dei fatti realmente che vanno in una direzione precisa. Sono conversazioni private, è ovvio che non sono fermabili, ma pensa a quello che è successo con Berdini, al di là del fatto che poi sappiamo che probabilmente c'era anche la voglia di Berdini di far venire fuori alcune notizie, non la buttiamo in politica, però anche quello, insomma, di fatto Berdini non è più assessore, perché dopo quella cosa è uscita mercoledì, che è un studio giornalistico. Siamo tutti grandi e vaccinati. Tra l'altro, una cosa solo voglio aggiungere, io se fossi stato Spalletti l'avrei difeso in pubblico e poi però l'avrei attaccato in privato, perché quelle sono cose che caricano gli avversari, se l'allenatore avversario è bravo, cioè, ma guarda il successo, sicuramente, quindi sicuramente. Quello è la carica. Sulle intercettazioni sono talmente d'accordo con Pierre, anche perché, ve lo dico proprio chiaramente, io subì nell'intercettazione telefonica di Lotito una cosa bruttissima che lui aveva detto, una specie di augurio di morte, ma ho sempre detto che quella non era una valutazione da fare, perché magari mi sarebbe piaciuto capire il contesto. Quindi lo dico da colpito, da virgolette, da vittima, che sono perfettamente d'accordo con quello che ha detto Pietro. Ma ti fa onore, ma questa roba qui io veramente riportiamola sulla nostra vita, non perché poi io dica chissà qualcosa di inopportuno, però chissà quante battute, voglio dire, sono due ambiti completamente diversi. Una conversazione privata e una conversazione privata deve essere sempre protetta. È chiaro che qui, e torniamo a un punto di furbizia, siamo ormai in un'epoca borderline, siamo in un'epoca nella quale bisogna moltiplicare. Qual è il confine del privato e soprattutto come lo difendi? No, lo so, non lo puoi difendere, quindi un personaggio pubblico, e un calciatore è chiaramente un personaggio pubblico, anche se pensa magari genuinamente di avere tre amici davanti o tre tifosi, che poi mi chiedo veramente quanto siano tifosi, perché poi insomma questo video comunque qualcuno l'ha messo in giro, quindi questi sono tifosi. È la mania da YouTube, è la mania delle visualizzazioni, è la mania, lo capisco. La mania è confusione. Probabilmente c'è anche un pezzo della tifoseria che di fronte a queste dichiarazioni si sarà anche galvanizzata, no? C'è anche una parte, è ovvio. da un certo punto di vista è il sogno di qualsiasi tifoso, no? Sentir dire che il tuo giocatore diciamo non ama, per usare un eufemismo, la squadra che si sta antipatica. Quindi è chiaro che in un certo tipo di tifoseria c'è una componente irrazionale che può anche essere stata in qualche modo coccolata da queste dichiarazioni. Però magari la difesa, Pier, era giusta, ma oggi va bene, adesso non so come era. Va bene tutto, ma da dire che è sano spirito sportivo e fascia di capitano, magari si poteva evitare. Vi devo fermare perché abbiamo il GR. Grazie Michele Plastino. Ciao Michele, grazie a voi, ciao Pier, ciao a tutti, ciao Pier. Pier, tu stai lì, abbiamo un minuto, dai, facciamo Nicola dalla provincia di Napoli, poi Luca dalla provincia di Lucca, riagganciamo dopo il GR. Nicola, dai. Salve, forza. Vai. Napoli, buonasera, complimenti per la trasmissione, una sola cosa, purtroppo peccato, quest'anno veramente potevamo vincere il tricolore, mancano 12 punti a Napoli, almeno dai 12, 6 punti con il Sassuolo, Pescara e Genova, meritatissimi sul campo, questi 6 punti qua, purtroppo è andata così, però è un grande Napoli, andiamo a Madrid con la giusta grinta e determinazione con i campioni d'Europa per poter dire anche la nostra, con il nostro gioco e con la Sarrimania. Complimenti per la trasmissione, grazie. Grazie a te Nicola, io aspetto con entusiasmo crescente la partita di mercoledì del Napoli al Bernabeu, e lo dico apertamente, faccio il tifo assoluto per il Napoli. 800 24 00 24. Luca, ci sei? Luca? Sì, ci sono. Allora, ti agganciamo subito dopo il GR, ti richiamiamo, torniamo subito. Tutti convocati. Tutti convocati. Ascolto Gianluca perché sono socievole ma non sono social. Perché a Grosseto Radio 24 si sente bene. Perché quando corro vorrei essere un gabbiano. Ascolto Gianluca perché ci devo pensare. Perché mentre rifaccio il letto mi chiedo se anch'io sono tutta da rifare. Ascolto Gianluca perché quando mi lavo i denti penso alla mia vita. Devo mangiare di meno. Melog. Ogni giorno a domande inedite ricevo risposte autentiche. Melog, cronache meridiane di Gianluca Nicoletti, dal lunedì al venerdì alle 12 su Radio 24. Vuoi andare all'estero per lavorare, studiare o semplicemente per cercare opportunità che in Italia non trovi? Le dritte giuste, i paesi giusti, i lavori giusti, ve li forniamo noi ogni sabato su Radio 24. Le storie di chi all'estero ce l'ha fatta e ci indica una strada da seguire. Sono Sergio Nava, vi aspetto tutti i sabati alle 13.30 con Giovani Talenti. Il segnale orario vi è offerto da Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. Benvenuto nella tua auto. Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto. Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus. Dibidi dobidi DAB. Anche Radio 24 è in digital. Tutti convocati. C'era un tifoso che la insultava in tribuna, ma ci ha fatto abbastanza ridere lei, che non ha risposto, ma lo ha fissato proprio in maniera impeccabile. Ci racconta che cosa diceva, insulti così a ruota libera. Sì, le stesse cose di quelli che hai dietro la panchina a volte. Io non disturbo nessuno e non rompo le scatole a nessuno. Quando la partita sto lì buono. Ah sì, mi sono messo a disposizione, se mi devi insultare, insultami, sto qui, dimmi quello che ti pare. Mi sono messo lì davanti, è durato 10 minuti di continuo, per cui ho cercato di agevolare quella che era la sua voglia, insomma. Questa è la scena della domenica, Spalletti che si volta verso i tifosi dietro la panchina a Crotone e dice: dovete insultarmi, mi metto a disposizione. Eccomi qua, vi faccio sto regalo, vi faccio sto favore, vi sto pure ad ascoltare, guardandovi. C'è Pierluigi Pardo che abbiamo riagganciato, vi raccontiamo anche Sampdoria-Bologna, sesto minuto 0-0, ma Muriel si è appena divorato una clamorosa occasione per il vantaggio della Sampdoria, e Leicester è sotto 2-0 con lo Swansea. appena iniziato il secondo tempo. Durissima lì, ragazzi. Abbiamo Luca da Lucca, che abbiamo lasciato in attesa da prima del GR. Luca. Un inciso. Sì. Buonasera Luca. La Sampdoria che tremare pardo fa. In termini di ma non lo diciamo, Se giochiamo tutto sulla tavola, neanche mi ricordo che ho detto io X e tu. Tu hai detto X e io 1. Siamo sei pari. No, tra l'altro, senza la scandalosa espulsione, Sassuolo ha giocato in 10 per 84 86 minuti più recupero. Facciamo della dietrologia, facciamo della dietrologia della moviola pure sulla schedina, ragazzi. C'è Luca. Luca da Lucca. Non me la faccio fare più. No, io ve l'ho detto, è lo scandalo della settimana. Luca, prego. Buonasera, salve. Volevo dire una cosa riguardo al fatto che dopo una settimana continuiamo ancora a parlare di Juventus-Inter, lo trovo una cosa scandalosa. Nel calcio, così come in qualsiasi sport, l'arbitro può fare errori, può non fare errore, è un po' come un calciatore, può sbagliare, non può sbagliare. Non è che quando un calciatore sbaglia un gol o un portiere fa un errore si dice c'è qualcosa di scandaloso, il calciatore è stato comprato dall'altra squadra. Mi sembra che Rizzoli ha fatto una partita non semplice, tra l'altro una bella partita, ha commesso qualche errore a favore della Juventus, qualche errore a favore dell'Inter, poi basta, il calcio è un'altra cosa, non si può continuare a parlare di queste cose. Grazie. Prego. Luca, ha ragione, però posso dire una cosa. Lo sta facendo lei. Abbiamo fatto anche noi all'inizio. È culturalmente corretto e apprezzabile, se non che però poi sono successe delle cose in questi giorni. Cioè, la polemica, noi continuiamo a parlare di Juve-Inter perché quello che è successo questa settimana è clamoroso. È clamoroso perché non è finito tutto. Oggi non si parla più del se c'era il rigore o non c'era il rigore. Oggi si parla di quello che è successo durante una settimana, nella quale il canale tematico dell'Inter ha prodotto un video. Elkan ha detto quello che ha detto. L'Inter gli ha risposto con un comunicato. Insomma, una settimana fa, a quest'ora. Sì, poi non so cosa pensate voi di Rizzoli che si fa intervistare dalle Iene facendo, secondo me, il finto sorpreso. Guarda, dice ad esempio anche che, secondo me, per carità, poi la sua spiegazione su Chiellini, Cardi, la punizione è la sua spiegazione. E ognuno resti della sua idea, ma che poi dica l'Inter fa casino, è criticabile perché vuol far ridurre le squalifiche, io insomma non lo so. Quello è un passaggio veramente, lo voglio sentire, anche se abbiamo già letto, e domani poi a Tiki Taka la approfondiremo anche con i diretti interessati, però credo che... Quindi con Rizzoli? No. Ci stavi dando una notizia? No, potrei dare adito, ma magari siamo aperti, ovviamente siamo sempre a disposizione. Rizzoli al numero, quindi no, io credo che appunto sono successe delle cose in questa settimana. Io sono fra quelli che lo sapete perché ne abbiamo parlato, ha considerato l'arbitraggio di Rizzoli l'altro giorno discreto, nel senso che ci sono degli episodi borderline, ma non ci sono stati degli errori clamorosi. Su tutte le questioni si può discutere, su alcune secondo me neanche perché insomma, non mi metto a rifare la moviola, io non ho trovato un arbitraggio sicuramente scandaloso e quindi secondo me si è esagerato con le polemiche. Detto questo, poi però Elkan l'abbiamo sentito, Elkan dice una cosa che fa capire che i rapporti sono, è stato come tornare indietro in 15 anni da un certo punto di vista, e il paradosso è che tutto è successo proprio all'indomani della partita che aveva rivisto il presidente dell'Inter presentarsi allo Juventus Stadium, stringere la mano Daniele, sembrava la fine di una guerra fredda, sì. E invece in questo questa momento questa guerra fredda non finirà per i prossimi n anni. Io non è che sia contento di questo, però no, ma io neanche. Ma se secondo me interessati fanno casino, noi che facciamo? No, ma secondo me è stato magistrale l'intervento sul foglio di Cerasa, che è stato ospite l'altro giorno da tifoso interista. Dillo ai tifosi all'Inter che l'hanno tu sei riuscito a organizzare Cerasa Travaglio o no? Io ho colto lo spirito di quel pezzo e secondo me è un pezzo che sicuramente è interessante. Io ho usato esattamente queste parole nel condividerlo. Sai che su Twitter quando condividi qualcosa non è un endorsement, cioè non vuol dire che sei d'accordo con qualcuno, però poi c'è sempre qualcuno che pensa che sia un endorsement. Va bene, detto questo, per me rimane un pezzo molto interessante perché è un pezzo sicuramente da interista vero, c'era da interista vero, su questo non ho dubbi perché lo conosco bene, che prova in maniera anche un po' provocatoria a dare una scossa a un ambiente che secondo lui è troppo spesso vittima del vittimismo. Quindi intanto palo del Bologna, ma così, per illuderti. Stai calmo, ma parlo del Bologna. Che domenica passi? Siamo a 6 su 7. Io mi sono avvicinato perché Sassuolo Chievo poteva tranquillamente finire in parità. Poi hai previsto la Sassuolo, che era chiaro che sarebbe mai verificata. Se si giocasse in 11 contro 11 a calcio, ci sono possibilità. Adesso basta, aspettate, non ve la faccio più fare la schedina. Antonio da Pavia, Antonio. Antonio? Pronto, sì. Dai. Buonasera. Buonasera. Sì, guarda, vai. Io ho sentito l'intervento dell'ottimo Nainggolan e il suo odio per la Juventus. Sì. Io sono tifoso interista. Ma volevo parlare della Roma soprattutto . E delle dichiarazioni del vostro ospite Plastino, che mi hanno colpito, sulla sua frustrazione di giornalista perché non c'è più mediazione. Un telefonino può capire qualunque dichiarazione. I giocatori e arbitri parlano a ruota libera. Ma cosa mi dite di una di quell'altra questione della Roma e dello stadio, dove proprio un giornalista ha carpito le dichiarazioni di un assessore e mette in discussione tutta la politica romana dello stadio? Guarda, io sul carpito avrei qualche dubbio, avendo ascoltato tutta la traccia audio. A un certo punto, insomma, l'assessore Berdini, credo si chiami, era perfettamente consapevole di aver davanti un giornalista e ha detto una frase che chi fa il giornalista si sente dire mille volte. Io te l'ho detto, tu scrivilo come se te l'avesse detto un anonimo. E quante volte leggete? Ma no, poi c'era anche l'altro audio, quello che ha fatto Petri. Berdini, nei fatti, adesso non voglio parlare di questa sera perché non ne so molto e perché tenda più da... Ma tanto oggi la Raggi ha detto che entro il 3 marzo lei vuole dare il via libera allo stadio. Quindi. Ma sì, ma lo stadio, in realtà la sostanza è che c'era uno scontro anche politico, perché Berdini era rimasto ultimo oltranzista. E invece buona parte dei 5 Stelle, alla fine anche il sindaco Raggi, si erano convinti che con tutta una serie di cautele, di vigilanze, di attenzioni però lo stadio si debba fare. Io sullo stadio dico una cosa soltanto per rispondere all'ascoltatore: la mia opinione è che io non ho un'opinione urbanistica sullo stadio perché non ne ho le competenze e veramente non lo so, quindi ho letto, poi qui ognuno ti dice una cosa. Il progetto apparentemente è un progetto molto buono, senza contributi statali, con 440 milioni di opere che vengono lasciate alla città, ma la cosa che secondo me è più interessante e sulla quale invece non ho dubbi è che se uno comincia un progetto nel 2012 con una giunta, questo progetto viene approvato dalla giunta successiva, dal centro-destra si passa al centro-sinistra, poi non è che si arriva alla terza giunta si ricomincia da capo. C'è un principio della continuità amministrativa che è importante per la vita di tutti noi, perché sarebbe come se noi prendiamo una casa, non so se c'è più l'equo canone, no? Prendiamo una casa in affitto dal comune, poi cambia il sindaco, non ce la fanno più fare. Detto questo, col massimo rispetto di Berdini, che sicuramente ma adesso vediamo come va a finire, perché no, insomma, va a finire, è evidente che la partita è più questa è una cosa che viviamo sulla nostra pelle tutti i giorni. C'è un piano regolatore approvato che magari ti favorisce, cade la giunta, fanno un altro piano regolatore che ti sfavorisce, quindi questo non vale solo per lo stadio di Roma, però vale per tutti noi. È uno dei principi, della debolezza strutturale del nostro paese. Non chiediamoci perché dall'estero non vengono a investire dalle nostre parti, perché c'è tutto così incerto. Ripeto, al netto delle... chi conosce Berdini sa che è veramente una persona integra, una persona con delle idee molto chiare, molto precise, quindi sicuramente avrà avuto le sue ottime ragioni per mettere tutta una serie di paletti. E ti dico che io da cittadino sono anche contento se c'è una giunta che non è particolarmente amica di chi vuole fare lo stadio e controllerà per filo e per segno dal giorno zero al giorno finale che tutto avvenga secondo il piano e secondo dei criteri del perimetro della legalità, come si dice. Sono felice, sono sollevato se c'è questo tipo di atteggiamento e se non sono tutti amici. Basta che una cosa viene approvata e poi va fatta. Siamo in clamoroso ritardo per il traffico. A proposito, poi parleremo anche di un'altra vicenda che sta facendo discutere, legata a soldi, business, sport, in questo caso a una grande manifestazione. Adesso c'è il traffico, torniamo subito. Tutti convocati. Durante la partita mi sono arrabbiato anch'io. Certo, ecco, non è stato benevolo, insomma, nei confronti del... Indubbiamente quanto ha detto Marotta sulla capacità dell'Inter a non saper perdere, nonostante dovrebbero avere l'abitudine adesso, è abbastanza stupefacente. stavo a Cagliari, io non ho mai perso alla Juventus Stadium, anche con Cagliari. Hanno vinto solo lo scudetto quando abbiamo giocato a Trieste. Oh, odio sì, la Juve perché hanno sempre vinto per un rigore, per un punizio. Rubano sempre. Dice due bischerate a due persone, due sciacalli, che possono anche aver manipolato il video. Quante volte siamo con gli amici così e poi parlando si prende per riferimento quello che è l'obiettivo comune. Sciacallo è anche chi le usa in maniera distolta, perché si vuol far apparire una faccia del ragazzo che non è quella reale. Siamo stati accerchiati in maniera molto veloce dalle 10-15 persone, è arrivata una bottiglia di vetro dentro il finestrino rotto, c'erano due vigili, ho visto che invece di venire verso di noi sono andati via. Questione allora che nessuno può andare allo stadio, potevo essere un ragazzo che viene da Roma a vedere se c'è una mezza sciarpa gialla e blu, bisogna condannare, non c'entra essere Luca Toni o Maurizio Setti o Pinco Pallino, è una vergogna. Tanto Bologna ha segnato 1-0 diciottesimo minuto, un gol bellissimo. Adesso vediamo anche il nome del marcatore. Leicester sempre sotto 2-0, Zemaili, solito Zemaili, contro lo Swansea. Saluto Giampaolo Montali. Montali, buonasera. Buonasera a tutti. Salve. Ciao Giampaolo. Davvero bello il gol di Zemaili, limite l'area di rigore destro di prima intenzione, palla sotto l'incrocio dei pali. Sampdoria 0 Bologna 1. C'è Pierluigi Pardo. Noi abbiamo provato a riassumere un po' tutta questa settimana sopra le righe del calcio italiano. Io non so, Giampaolo Montali, da grande dirigente e anche da grande ex dirigente del calcio italiano, che riflessione vuole fare? Ma oddio, io vedo che sopra le righe siamo in tanti campi in questo paese, non solo nel calcio, nello sport. Siamo diventati sopra le righe anche parlando di uno sport anglosassone come il golf, lo siamo in politica, lo siamo in tutte le sfaccettature di questo paese, insomma. Quindi non mi scandalizzo tanto di per queste quindi, cose. Quindi l'immondizia vocale da qualunque parte venga non ti fa più tanto effetto? No, non mi fa effetto, mi fa immondizia, come dici tu, quello mi dà molto fastidio perché innanzitutto noi all'estero fuori non siamo recepiti come un paese litigioso e che ha perso lo stile, la plomb che invece aveva probabilmente negli anni passati, però invece all'interno siamo diventati brutti da vedere, a tutte le latitudini e tutte le longitudini, indipendentemente da dove ci troviamo, c'è questa sorta di atteggiamento latente da parte di tutti quanti alla ricorsa alla demagogia, al populismo, e questa cosa qua non è una cosa che fa bene al nostro paese, soprattutto non fa bene agli italiani, perché invece siamo un popolo, secondo me, di grandi valori, con grande stile, persone con grande intelligenza, siamo un popolo che mantengono i nostri, che crescono, fanno forma i nostri giovani, gli spendono milioni di euro per far crescere i nostri giovani e poi sono costretti ad andarsene a lavorare all'estero, ma noi li formiamo e poi a godere della nostra intelligenza, della nostra italianità sono altre figure o altre persone in giro per il mondo. Pier? Ma qui ci sono tante cose insieme, la settimana è stata veramente la Welcome to the Jungle, siamo pure le macchine bruciate del presidente del Pescara. Sì, tra l'altro, che poi siccome abbiamo sentito così, perché è anche corretto e giusto, abbiamo sentito la versione di Luca Toni sull'atteggiamento dei vigili urbani. Vi raccontiamo, non c'è in audio, ma vi raccontiamo che il capo dei vigili urbani di Avellino ha smentito la ricostruzione secondo cui i due agenti presenti si sono voltati dall'altra parte. Poi, insomma, le indagini faranno loro corso, nessuno. Per noi era corretto però riportare entrambe le versioni. Prego, Piero. Assolutamente. No, guarda, il discorso qualche giorno fa un ascoltatore ci ha chiamato e ci ha chiesto dello stadio, sul quale, ripeto, non ho idee chiarissime, però credo che a un certo punto, se le cose vengono approvate, si debba andare avanti. Qui il caso è ancora più clamoroso se parliamo della Raider, nel senso che la Raider, basta aprire internet e vedere tutte le ricerche di tutte le università, per esempio in occasione della Raider Cup del 2014 in Scozia, è una manifestazione straordinaria dal punto di vista economico, lo sarebbe ancora di più per l'Italia, perché l'Italia chiaramente non è ancora un paese di golfisti, ma ci sono 70 milioni di golfisti nel mondo, la stragrande maggioranza dei quali vengono dall'estero, ci sono 25 milioni di persone che fanno turismo golfistico in un anno, e se noi facciamo questa roba qui nei prossimi 10 anni sui campi della Ryder, per il piacere di giocare sui campi della Ryder e di visitare l'Italia, verrà un sacco di gente. Oltretutto, simpatica o antipatica fate voi, ma molto ricca. Yeah, ma non c'è stata però un po' di leggerezza? Poi la vicenda l'abbiamo letta tutti sui giornali, sì, nell'idea di mettere queste garanzie governative dentro un decreto che non c'entra nulla, anzi un paio di decreti che non c'entrano nulla. Però questo Montagna sa di più, però stiamo parlando, se non sbaglio, di una fideiussione, no? Cioè di una cosa di una garanzia legata al credito sportivo. Io ti dico la verità, penso che ci sia probabilmente il fatto che il golf viene percepito come uno sport per ricchi, magari, e quindi può essere facilmente attaccabile dal punto di vista un po' populista di chi non lo ama, però la ricaduta è soltanto positiva per tutto il paese. Io ho letto dei titoli di giornali, degli articoli in questi giorni in cui si parlava della Ryder come se fosse la sagra della porchetta di Ariccia, sì, che tra l'altro è una cosa che mi fa impazzire. Confesso a Montali che io preferisco la porchetta al golf ancora, nonostante tutto, quindi grandissimo rispetto, però veramente sembrava proprio una sagra. Cioè, la Ryder Cup è il terzo evento al mondo, ma basta andare su internet per vederlo. Allora, se vogliamo fare qualcosa insieme per crescere come paese, bene, se no, voglio dire. Ma no, poi parliamo di organizzare mondiali e olimpiadi, ma io devo sentire su questo aspetto Giampaolo Montali, che ci ha messo la faccia e il lavoro, perché è presidente del comitato promotore. Sì. Hai ragione, perché sono 10 mesi che sto lavorando proprio a pancia a terra su questo progetto. Allora, innanzitutto, la cosa più eclatante è la ignoranza che c'è su questo torneo. Cioè, ho letto di quelle cose, ho sentito trasmissioni, purtroppo anche dalla vostra rete televisiva la mattina, la televisione di Giannino, gente fare populismo e demagogia dicendo che 97 milioni è il golf, meglio bisogna dargli i terremotati o dargli per i libri scolastici di testo, senza sapere che non sono 97 milioni di euro che il governo spenderà mai, sono solo una garanzia, che sono una condizione sine qua non affinché gli inglesi ti diano la Ryder Cup, come fanno in tutti i paesi, l'hanno fatto in Scozia, in Francia, hanno bisogno di una garanzia. Quindi questi soldi sono soldi che il governo non spenderà mai, perché comunque sia, se alla fine del business plan, degli 11 anni di progetto, non torneranno indietro e ci sarà qualche buco di soldi, sarà la federazione che risponderà al governo, quindi il governo non spenderà assolutamente niente. Ma la cosa incredibile è che c'è un'ignoranza totale su questa cosa qua, e la si è buttata solo dal punto di vista politico, ed è per questo che io sono molto arrabbiato su questo argomento, perché innanzitutto questa è una manifestazione sportiva, sono 11 anni di manifestazione sportiva con un Open d'Italia il più alto della storia in Italia sicuramente, ma in Europa tra i più alti in assoluto, con un montepremi da 7 milioni di euro e con 11 anni di tornei in tutto il territorio italiano, dal nord al sud al centro, grandi eventi che si farà in questo paese per sviluppare questo sport. Quindi prima di tutto è manifestazione, un progetto sportivo di 11 anni. Secondo, come diceva giustamente Luigi prima, è un progetto economico enorme, perché a fronte di soldi che il governo dà, perché esiste invece un 60 milioni di euro dati a fondo perduto per l'organizzazione di tutti questi 11 anni, il governo ne riceve indietro 83 milioni per entrate fiscali, più il 30% di tutti i montepremi di questi 11 anni. Io insisto sulla leggerezza di chi, per fare un atto normale, lo sbatte dentro dei decreti che non c'entrano nulla e poi lascia la porta aperta a qualunque tipo di contestazione. Scusate. Questo è giustissimo. Però no, io credo che insomma l'impatto per l'Italia sia clamoroso. Io non credo che in Francia abbiano fatto un vabbè, però insomma. No, ma comunque c'è un vizio di partenza, insomma. Posso dire una cosa? Sì. In Francia hanno fatto una cosa in più. In Francia il governo ha fatto una legge per detassare i premi dei montepremi dei tornei di golf. Cioè, ha fatto una cosa in più perché ha capito che il golf è un valore aggiunto per il turismo, per le infrastrutture. Guardate, è stato fatto uno studio su questo torneo in questi 11 anni che porterà attraverso KPMG, che se non ci fidiamo di KPMG non ci possiamo fidare di nessuno nel mondo delle organizzazioni, che entrerà un indotto di 520 milioni di euro in questi 11 anni al paese. Ma questi 520 milioni di euro non è che vanno ai ricchi del golf, è esattamente il contrario. Questi 520 milioni andranno distribuiti sulle persone che lavoreranno in questi 11 anni al progetto del golf, saranno i giardinieri che non verranno licenziati dai circoli sportivi, i camerieri, i cuochi, chi farà i montaggi per le infrastrutture, gli alberghi. Ci sono i ritorni. Sì. Ragazzi, è un turismo ripeto, poi magari non ci stanno neanche tanto simpatici, no? Però ci sono. Ma è un turismo di lusso che per il nostro paese, che oltretutto è un paese con più di 400 campi da golf, in dei posti meravigliosi, insomma, dobbiamo semplicemente andarci a prendere questo mercato e questa gente deve venire da fuori. Ma mi sembra evidentissimo, e la città che avrà probabilmente più vantaggi sarà proprio la città di Roma, perché comunque la Raider, anche se ho letto da qualche parte che la fanno in Toscana, perché ho letto pure questo, che la Raider la fanno in Toscana, la Raider si giocherà, ci auguriamo che si giocherà al Marco Simone, quindi la città che avrà un impatto maggiore sarà la capitale. Vi devo fermare perché mi dice in un flash Montali come finisce il 28, da qui al 28 febbraio, che mi pare di aver capito un po' la deadline. Allora, guardi, veramente la deadline è lunedì, domani il 13, però abbiamo mandato un dossier agli inglesi. Domani loro hanno un board importantissimo, però sono riuscito a prendere un po' di tempo, anche perché adesso è il governo che deve trovare lo strumento esatto e giusto per fare in modo che ci vengano riconosciute queste garanzie. Quindi il governo sta pensando qual è la soluzione migliore per poter arrivare a queste garanzie, e speriamo di aver fatto un po' di chiarezza in questi giorni con la conferenza stampa su quello che è questo progetto, sul fatto che siamo alla luce del sole. Noi abbiamo il nostro sito della federazione, che chi vuole lo va a controllare, sono 10 mesi che c'è scritto tutto qual è il progetto, i valori, le cose che entrano in gioco. Io credo e spero che possano aspettare, che ci aspettino fino al 28, e che il governo, che sta lavorando, e devo dire che lo ringrazierò sempre per quello che sta facendo, entro il 28riesca a trovare il 28, sì, il altrimenti sistema. Dopo sarà molto difficile e complicato. Va bene, grazie Giampaolo Montali. Grazie a voi di avermi ospitato e aver ospitato questo mio sfogo, che non è sicuramente per la giornata sportiva di oggi, però insomma è una cosa a cui tengo particolarmente, perché ci credo molto e credo che questo sia veramente una grande opportunità per il paese. Poi vogliamo le Olimpiadi, Giampaolo. Ormai se ne parla fra 100 anni. Ma meno male. No, vi devo fermare perché siamo davvero in ritardo sulla pausa. Allora, io ringrazio Giampaolo Montali, ringrazio anche per Luigi Pardo, no? Ciao, ragazzi, che ciao, sta ciao, per ciao, andare allo stadio di Cagliari. Grazie a tutti. A domani, grazie Montali. Pochi secondi, torniamo con il Bologna che vince 1-0 a Marassi contro la Samp, gol di Zemaili, mentre il Leicester è sempre sotto 2-0 fuori casa contro lo Swansea. Tutti convocati. Tutti convocati. Per quanto riguarda il mio futuro, allora, innanzitutto, come faccio a smentire una cosa che non ho mai detto? Uno. Seconda cosa, come faccio a confermare una cosa che è inesistente? Quindi al momento sono alla Juventus, ho ancora un anno e mezzo di contratto, sto bene. Come ho sempre detto, abbiamo una stagione da portare a termine nel migliore dei modi, poi a tempo dovuto ci incontreremo con la società, perché giustamente sia loro che io bisognerà parlare, perché è una cosa di futuro, di programma, ma al momento tutte queste cose sono tutte illazioni che vengono scritte e dette. Questa è la vigilia di Allegri, ore 20:45, Cagliari-Juventus, mentre continua a essere in vantaggio il Bologna-Marassi contro la Samp, 33esimo minuto 1-0, gol di Zemaili, e continua a essere sotto 2-0 Leicester a Swansea, 2-0 per lo Swansea sul Leicester, due squadre che sono entrambe al quart'ultimo posto, anzi in questo momento al quart'ultimo posto resterebbe soltanto Leicester, e dunque in piena zona retrocessione. Tutto questo dopo aver analizzato la settimana dei veleni. Un cordiale saluto sì, dal vostro senatore preferito, il senatore Gasparri. Io volevo offrire, mi raccomando, perché stia tranquillo, volevo offrire con la mia abituale sportività, pagatezza, sì, no, ma anche ecco il mio moderato, sobrio e commendevole, non so se commendevole, quindi sì, un italiano aurico, sì, mi sto impegnando molto, punto di vista sulla vicenda Nainggolan, senza nostalgismi di sorta. No, ecco, Nainggolan ha sbagliato, non vi è dubbio alcuno. Io dico, a questo le fa onore, lo dico con grande senso dell'amicizia, nessuno odia la Juventus. Oh, la Juventus non vince grazie ai rigori e non vince grazie alle punizioni. Hai capito? La Juventus vince semplicemente perché è la più forte nell'elargire cospicue mance nelle tasche della classe arbitrale. Non si può dire, no. E Nainggolan ha sbagliato perché doveva andarci giù più pesante. Ma non si può dire. Se scansano tutte con la Juve, e quando non si scansano ci si mette pure l'arbitro. Ma non si può dare. Rigori, punizioni, espulsioni, togliete l'audio al senatore Gasparri. Ma dico, ma non è così. Guido Bacciago, ciao. Ciao. Buonasera a tutti, buonasera. Allora, ecco, a tutti. Non era neanche senatore Gasparri, il nostro Andrew Mercù, prima che... comunque non è vero, senatore, un po' più moderato la prossima volta. Oh, Guido, ci dai, se vuoi, insomma, le ultime sulla Juve, cosa vediamo a gioca Cagliari? Marchisio. Gioca Marchisio al posto di... Al posto di Pjanic, al fianco posto di Pjanic. Quindi non ci sono i fantastici 5. Vabbè dai, Marchisio non lo vogliamo chiamare fantastico. No, però è un po' più di corsa, sì certo, un po' più di corsa, un po' più di gamba, un po' più di dinamismo a questo centrocampo. È curioso che non riposi mai Khedira, è forse lui il vero insostituibile di questo nuovo sistema di gioco. I tempi del tedesco, il suo essere metronomo, è forse il segreto del centrocampo di questo 4-2-3-1. Comunque sì, Marchisio sostituisce Pjanic e poi il resto è tutto invariato, quindi Quadrado, Dybala, Mandzukic e Higuain davanti. Sì, non riposa mai nemmeno Mandzukic, quello che tiene in piedi tutta l'intelaiatura. Una volta però ha riposato, però sì, Mandzukic è incredibile, anche perché quello che sta facendo è un dispendio di energie incredibile, perché questo mi fa venire qualche dubbio, mio caro Guido, cioè qualche dubbio nel senso di quanto Mandzukic regge fino a fine stagione e adesso ci sono le coppe, tu ben sai, è inutile. Ah, bella domanda. Bella domanda. Non lo so, guarda, ci sono dei giocatori che possono, spinti da motivazioni particolari, spinti da un momento magico, trovare energie anche dove non ce ne sono e poi magari pagarla nelle stagioni successive. Io mi ricordo l'età del triplete interista, più o meno faceva quello che fa Mandzukic adesso. E mi ricordo che ne saltò ben poche. Sì, con un altro tipo di fisico però. Esatto, sì, è certo, forse anche quello incida. Vediamo cosa succederà più avanti. Io credo che in questo momento Allegri stia consolidando questa formazione. Può darsi che magari già a partire dal prossimo impegno contro il Palermo, che precederà la partita contro il Porto, si inizia a vedere un po' di turnover e magari qualcuno dei più utilizzati riposi proprio in vista della partita di Coppa. Sì, anche perché poi il Porto è dietro la porta, scusate il gioco di parole. Io volevo capire se tu hai capito qualcosa invece del balletto di Allegri. Prima lo smentisce, poi conferma, poi dice che non smentisce, non conferma una cosa che non esiste, poi vuole fare 400 panchine con la Juve ed questa sera arriva a quota 100. Poi io ricordo che un anno fa di questi tempi Marotta disse alla Juve non staremo più con un allenatore in scadenza. Oggi mi sembra che il tema non sia d'attualità. Ma il tema non è d'attualità perché credo che la squadra non ne risenta. Proprio Allegri, che ha fatto appena adesso una rivoluzione tattica con la squadra che lo ha seguito in maniera incredibile. Parlavi di Mandzukic, pensa a cosa sta facendo Mandzukic per Allegri, per questo nuovo sistema. Però io credo che Allegri sia giunto forse al capolinea motivazionale della sua avventura alla Juve. È una persona umanamente irrequieta, nel senso anche buono del termine, uno sempre alla ricerca di nuove avventure, nuovi stimoli. Io credo che comunque vada l'avventura in Europa quest'anno, l'anno prossimo la Juventus si trova Allegri si troverebbe a dover motivare una squadra in maniera piuttosto difficile. Che cosa si può raccontare? Il settimo scudetto consecutivo? Si rischia davvero di essere aggrappati e avvitati soltanto alla Champions League, che sappiamo che rischio può essere. Se ci sono state delle offerte in Inghilterra, per lui è una grande opportunità per riuscire ad allargare i propri orizzonti calcistici. Tutto sommato la Juventus potrebbe con un nuovo allenatore ricominciare rimettere linfa in un ciclo che altrimenti potrebbe arrivare a una stasi non tecnica ma magari motivazionale. Sì, anche i cicli, soprattutto se vincenti più di 3 anni, è difficile che durino. Io sono sufficientemente convinto, è solo una sensazione però me la porto dietro, del fatto che sono d'accordo con Guido, insomma, che per Allegri sia l'ultimo ballo, The Last Dance, e poi l'anno prossimo andrà a fare l'allenatore top in un club top come merita, perché è uno dei più bravi allenatori d'Europa, dunque del mondo. Lo ha dimostrato ampiamente e per in maniera un po' cinica e bara, perché mi è simpatico Allegri, sogno di vederlo alzare quel trofeo che tutti gli juventini sognano giorno e notte e poi fare come Mourinho. Prossimo allenatore magari inizia con la S. inizia con la S, Guido, il cognome inizia con la P ed è il segreto di P Pulcinella. Beh, però sai, S come Spalletti, S come Sarri, S come Sousa, L come... No, appunto, Sarri no. Ecco, io mi sento di escludere Sarri. Io credo proprio, poche certezze ho nella vita calcistica, diciamo, e una di queste è il fatto che Sarri non sarà il prossimo allenatore della Juventus, perlomeno non adesso, non quest'anno. E credo che la Juve non cerchi un rivoluzionario, non cerchi un grande come dire tattico che fa le sue rivoluzioni, quanto piuttosto un altro grande gestore, un allenatore di questi, dei top team, che sanno mettere in campo i campioni e lasciano ai campioni anche una certa libertà. Io credo che da questo punto di vista l'esperienza di uno Spalletti sia in questo momento la cosa che intriga di più. Oltretutto Marotta ha anche già lavorato con Spalletti alla Sampdoria, non era andata benissimo, però i due si conoscono. Nel frattempo Spalletti ha fatto un bel po' di esperienza anche internazionale, sarebbe il profilo adatto. E poi magari ce ne sono degli altri che spuntano. Che potrebbe iniziare con la M di Montella. M di Montella, credo rimarrà al Milan. Magari S di Simeone. Ecco, Simeone è un altro giocatore, è un altro allenatore interessante, però ecco, è un altro che entra un po' a piedi uniti nello spogliatoio. Bravo. No, ma io continuo a vedere Paolo Sousa più di Spalletti, che io vedo pronto per una carriera politica dopo questa dopo settimana, la battaglia dello stadio. Però sai, Paolo Sousa, che è un allenatore che ha un rapporto umano con la famiglia Agnelli, in particolare con Andrea, che nasce veramente da tanto tempo fa, quando era giocatore della Juve, quindi credo che da questo punto di vista parta con un vantaggio rispetto ad altri. Però è anche un allenatore che mi sembra voglia mettere tanto becco nel mercato, e questo alla Juve non è tanto tollerato. Cioè, se litiga da un anno con la Fiorentina dopo il mercato di gennaio del 2016, forse deve rivedere un po' certi atteggiamenti per venire alla Juve, no? Dici tu questo. Grazie Guido. Ciao Guido. Grazie a voi. Ciao. Grazie Guido Baciago. Facciamo al volo Paolo da Milano. Paolo. Sì, volevo fare una domanda. Pronto? Vai. Volevo fare una domanda ancora su Nainggolan. Dai. Cioè, io mi chiedevo appunto com'è che questa persona, che non è un italiano, che è qui da pochi anni, che è un indonesiano belga, pensa anche lui che la Juve vinca grazie all'aiuto degli arbitri. Tu dici le notizie girano, no? Per questo, fai l'ironico, dici le notizie girano, no? Se lo sanno anche in Indonesia, in Belgio. No, però dico, siccome lui è un osservatore esterno, pensavo che avesse maturato un punto, è l'aiuto di un osservatore esterno. Io Paolo credo proprio di no. No, mi sentirei di escluderlo. Insomma, ragazzi, la Juve è uscita 10 giorni fa, credo, la statistica, ha fatto 100 più punti in più degli altri, ha fatto non so che cosa. Comunque mi sembra che il dominio della Juve in questo momento sia difficile da ricondurre all'intervento esterno degli arbitri, anche se in Indonesia la pensa così magari anche Tuir, in Indonesia. Però vabbè, io saluto Carlo, che troviamo domani dopo il giro delle 14. Ciao Carlo. Abbiamo il traffico, poi parliamo un po' di sci, mentre mancano 2 minuti e mezzo alla fine di Sampdoria Bologna, primo tempo 1-0 per il Bologna, mentre Leicester è sempre sotto 2-0 a Swansea. Tutti convocati. Per raccontare quelli che sono gli ultimi 60 secondi del primo tempo di Sampdoria-Bologna, con il Bologna che è avanti per 1-0, decide fin qui il gol di Zemaili al 18esimo, un bellissimo gol con una conclusione dal limite dell'area di rigore, palla sotto l'incrocio dei pali, Sampdoria che aveva approcciato decisamente meglio questo primo tempo, aveva avuto una grandissima occasione in apertura con Muriel, poi però è arrivato il gol del Bologna, che pochi istanti prima aveva colpito un palo con Krejci, e da lì in poi la partita si è fatta decisamente più equilibrata. Scrive un amico: se va via Allegri il prossimo anno torneremo a giocare bene a calcio e non a fidarci alla giocata del singolo. Io penso in realtà che Allegri stia dimostrando quest'anno di essere in grado di dare un gioco diverso alla Juve, e anche un gioco, mi sembra, dopo la svolta con questo nuovo modulo, decisamente gradevole oltre che proficuo. 800 24 00 24. Enrico da Bologna. Enrico da Bergamo, più che da Bologna. Prego Enrico. Niente, volevo intervenire sullo stadio Raggi, sì. Assessore Verdini. In fondo Verdini ha detto dei concetti espressi, l'assessore all'urbanismo, sì. Ha espresso concetti già espressi da Alemanno, quando Alemanno sindaco aveva la Raggi come presente nel consiglio. Mm. Allora, che cosa ha detto che Verdini? La Raggi è manipolata da una corte di miracoli. È vero, così hanno dimostrato questi signori che stanno sotto. La Raggi non è capace di intendere di volere, in altri termini ovviamente. Sì. L'aveva già detto, l'aveva già espresso Alemanno quando era sindaco, che la vedeva lì come una bambolina dispersa, sì, nelle cose. Però Enrico, perdonami, io adesso fare il processo politico a sindaco di Roma in una trasmissione sportiva non mi sembra il caso. Io mi fermerei, se sei d'accordo, poi ti faccio concludere l'intervento sulla parte relativa proprio al progetto dello stadio. Lasciamo stare le questioni politiche, c'è un'ampia discussione se tutto ciò che c'è intorno allo stadio nel progetto sia eccessivo rispetto all'opera in sé, e quindi se in qualche modo sia, possa essere speculazione e basta. Credo che la discussione, almeno per quanto ci riguarda, lì debba fermarsi, posto che, insomma, l'abbiamo detto prima, a un certo punto si deve arrivare a una conclusione, e ci deve essere anche una coerenza di atteggiamenti da parte di un'amministrazione. Però entro il 3 marzo vedremo come andrà a finire, noi facciamo gli spettatori da questo punto di vista. Così come stamattina abbiamo visto la super domenica delle discese libere a St. Moritz, mondiale di sci. Ce l'avevo, si poteva fare, io ho dato tutto e non è andata. Dai, recupera. Ma sì, ma cioè, adesso ho bisogno di metabolizzare le mie cose, non è che posso venire qua ai microfoni Rai 2 minuti dopo aver perso 7 decimi nell'ultimo lap per un mio errore e sorridere e dire ma sì dai, sono contenta. Cioè, io non mi accontento. Adesso riprendi tutto il tuo coraggio, dai. Sì, sì, vabbè, però intanto la medaglia è andata e oggi era facilmente alla portata, ma proprio facile. Ho sbagliato una curva, ho preso un piccolo buco e poi mi ha portato largo, poi in generale non era una brutta prova. Sei un po' arrabbiato? Arrabbiato no, io ho dato il meglio, ho provato a fare quello che riuscivo e quello l'ho fatto, su quello sono contento e poi non è bastato, quello sono meno contento. Allora, questa è la delusione di Sofia Goggia, che è arrivata quarta nella discesa libera femminile vinta dalla slovena Stuez, quarta 52 centesimi a 7 dal podio, a 12 dalla medaglia d'argento. L'altro invece era Peter Phil, che è arrivato nono in quella maschile, che è stata vinta dallo svizzero Foyz. Saluto e ringrazio Mario Cotelli. Buonasera Mario. Buonasera. Bah, insomma, mi sembra che non sia stata una domenica fortunata per gli italiani, e dico anche fortunata. Non parliamo di sfortuna. Primo, perché se non si vincono queste gare, non si fa medaglia in queste gare in cui non c'è più nessuno, manca la Gut, la Vonen bacina di carenaggio, la Fenninger non c'è, la Utter è rotta anche lei, cioè non c'è più nessuno, e se si sbaglia in Super G, si sbaglia in combinata due volte, sia in discesa che in slalom, e si torna a sbagliare in discesa, vuol dire che non è sfortuna. Che cos'è? È incapacità di reggere la pressione? No, c'è qualche limite tecnico? C'è un limite tecnico, che a un certo momento non è colpa della ragazza, perché la ragazza vuole attaccare, mentre invece lo sci è fatto anche di gradualità, di gradualizzazione del gesto motore, quindi bisogna andare via un pochettino più rotondi. Lei va via troppo dritta e dopo succedono queste 4-3 qua. Cioè, sì. È un problema di carattere tecnico puramente, basta. Oggi è stata quasi perfetta per 60 secondi, poi dopo ha rischiato anche di cadere. No, ma è ovvio, perché in una discesa lei un errore ce lo cassa sempre dentro, ti va sempre bene, ti va bene una volta, due volte, cinque volte andare dritta sul palo, a un certo momento entrate incontro in una parabolica, è entrata in ritardo, quindi è andata in perpendicolare alla parabolica, era ovvio che gli sci a un certo momento non facessero più la pressione che fanno normalmente in una curva in contropendente. Non sono stati sfortunati nemmeno gli uomini in una gara comunque condizionata dalla visibilità che è cambiata, dalle condizioni della neve. No, no, è cambiata la visibilità quando i due erano già all'arrivo e erano già fuori medaglia. È cambiata dopo il decimo, quindi non è un problema di un cambiamento di cose. Cioè, sarebbero comunque rimasti fuori, sì. Sarebbero rimasti fuori. Phil ha un gesto motorio perfetto, peccato che non abbia cambiamento di ritmo. Cioè lui va con lo stesso ritmo sia che sia sul facile, come in una gara come quella di oggi, sia sul difficilissimo gelato. Paris invece fa ancora troppi errori, in curva e sui salti. Ma che voto vogliamo dare fin qui alla spedizione italiana ai mondiali? La spedizione italiana, se la guardiamo da un punto di vista, voi la vedete dal punto di vista dei risultati, nel senso delle medaglie. Io la vedo dal punto di vista di gruppo. E come gruppo non è che andiamo molto bene, perché oggi in discesa abbiamo portato la Goggia e tre ragazze oltre 32 anni, una addirittura appena operata la spalla, però non c'è i rincalzi. Negli uomini non siamo riusciti neanche a schierare il quarto perché non abbiamo rincalzi. Quindi in questa situazione, nella velocità, siamo un po' carenti e quindi, nonostante i grandi investimenti che fa la squadra italiana, nonostante i grandi investimenti che fa la federazione, che fa il CONI, che fa il governo su questi ragazzi, vuol dire che c'è qualcosa che manca dal punto di vista tecnico. Che riconduce sempre a chi guida questo gruppo. Beh, forse ci eravamo un po' illusi con i risultati di questa prima metà della stagione. Ma guardi che quando Paris ha vinto, per esempio, per quanto riguarda quando ha vinto a Kitzbühel, ha vinto perché è saltato per aria Foyt, che era a poco dal traguardo, per troppa velocità sul salto che l'ha scarrocciato fuori. Quindi ci sono stati dei bei risultati, per amor del cielo. Paris è fortissimo sul dritto e ha dei limiti sulle curve e sui salti, e oggi c'erano un po' troppe curve e un po' troppi salti. Sì, era parecchio mosso. Per quanto riguarda le donne abbiamo la Goggia ha fatto sempre tanti podi, però non ha mai vinto. Ci sarà una ragione, perché ogni volta gli mette dentro il suo errore. Ci saremmo anche accontentati del podio oggi, noi che guardiamo da fuori senza essere dei tecnici. Ma doveva essere almeno un podio. Ma aveva ragione a essere arrabbiata. Chi? La Goggia. La Goggia, ma non deve... Cioè, la Goggia, cioè, deve fare un'analisi tecnica con se stessa, non un'analisi psicologica. Non è un problema di attacco, cioè, è un problema è puramente di carattere tecnico. Non scrive la scienza esatta. Grazie Mario. Grazie Mario Cotelli. Buonasera. Grazie mille. Paolo da Torino. E buonasera a tutti. Prego. Volevo solo fare una piccola chiosa, l'ultima, diciamo, su Juve, Inter, eccetera. Sì, dai. Io sono juventino. L'Inter mi piace moltissimo. Non è una battuta, evidentemente. Ha dei giocatori fantastici. Adesso un allenatore che veramente tanto di cappello l'ha tirata fuori, insomma, da un problemino. L'unico veramente grosso problema dell'Inter, secondo me, è che si piangono troppo addosso. Ma mi creda, non è... mi piace vedere giocare l'Inter, cioè a prescindere da essere della Juve o meno. Mi piace. Vabbè, insomma, oggi Pioli ha detto che la squadra già lunedì aveva rimosso tutto di Torino e che il resto è successo al di fuori di Appiano Gentile. Forse aveva ragione lui, insomma, oggi l'Inter in qualche modo ha risposto, seppure con delle assenze importanti, ha vinto. Era anche una partita semplice sulla carta, vediamo cosa sarà già settimana prossima a Bologna. Ricordo Bologna che all'intervallo sta vincendo Marassi con la Samp, però l'abbiamo detto, è stata tutta esagerata questa settimana. Grazie Paolo, io ringrazio anche Claudia Schiattone, autrice di questa puntata, Gianmarco Ferronato, Andrea Roccabella, che si sono alternati in regia, il nostro Andro Mercù con le sue voci. Tutti convocati torna domani dopo il GR l'Europa delle 14, mentre noi ci risentiamo domenica alle 17. Ciao. Buon lavoro Spalletti. Si guarda la TV, si guardano gli altri risultati e chi gioca meglio di noi. Si copia.